Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. A tutti voi, cari ascoltatori, un caro saluto. Ci ritroviamo dopo 2 mesi di pausa per un motivo o per l'altro, quindi non abbiamo potuto negli ultimi mesi continuare la nostra lettura commentata degli Atti degli Apostoli. Ecco, ringraziamo il Signore che ci troviamo ancora raccolti attorno alla parola di Dio e chiediamo alla Madre che ha generato, custodito e favorito l'incarnazione del Verbo di essere qui con noi, perché questa ora e mezza che trascorreremo insieme possa portare frutti di vita nella nostra quotidianità. Ecco, sappiamo che l'obiettivo di questo nostro appuntamento mensile è un obiettivo triplice. Da un lato desideriamo leggere con attenzione il testo degli Atti degli Apostoli, dall'altro cercare di notare come la narrazione stessa di Luca negli Atti ci aiuti a volte a cogliere dei richiami sia ad alcuni passaggi del Vangelo o ad alcuni episodi della vita di Gesù, mettendo in parallelo la vita di Paolo con quella del Signore, e infine cerchiamo anche di cogliere dal testo alcune luci che possono essere forti per il nostro cammino, tanto più in questo tempo in cui la liturgia ci invita proprio a immergerci nel mistero pasquale di Cristo che soffre, muore e risorge. Ecco, siamo arrivati nella nostra lettura al capitolo 21 degli Atti degli Apostoli. La volta scorsa abbiamo commentato l'addio di Paolo agli anziani di Efeso, di Mileto, provenienti appunto dalla comunità di Efeso. Ecco, questa sera vedremo l'arrivo di Paolo al termine di tutti i suoi viaggi missionari, l'arrivo di Paolo nella chiesa madre di Gerusalemme. Abbiamo avuto modo nelle ultime puntate, negli ultimi momenti di riflessione sul testo, di vedere come l'apostolato di questo grande apostolo non ha incontrato solo accoglienza, ma più va avanti, più all'accoglienza si intreccia una sorta di sospetto nei suoi confronti, se non addirittura di rifiuto e di persecuzione. Ecco, anche la tappa nella Chiesa Madre di Gerusalemme sarà segnata da questi elementi. Ecco, il testo su cui ci soffermeremo ha dei passaggi che magari ci sembreranno un pochino complessi, un pochino difficili, ma nello stesso tempo sono preziosi, è prezioso sostare anche su questi passaggi perché ci fanno capire come l'identità cristiana, che poi è stata trasmessa a ciascuno di noi, è un'identità che è andata formandosi piano piano, non senza sofferenze, non senza sacrifici, non senza momenti prolungati di riflessione e di discernimento. Ecco, invito quanti di voi sono nella possibilità di farlo, di prendere tra le mani un'edizione della Bibbia, oppure del Nuovo Testamento, se la Bibbia meglio, e per gli altri invece invito a raccogliersi semplicemente nell'ascolto. In questa nostra trasmissione portiamo ovviamente non solo coloro che viaggiano o coloro che sono in ascolto, ma in modo particolare quelli che in questo preciso momento stanno soffrendo o hanno bisogno di preghiere, di luce particolare, magari vivono dei momenti di scelta o di difficoltà molto particolare. Ecco, li portiamo tutti davanti al Signore, certi che la preghiera fatta insieme ottiene sempre molte grazie, che restano nascoste ai più, ma che il Signore e le singole persone conoscono. Mettiamoci subito in ascolto del testo degli Atti degli Apostoli. Dicevo che siamo al capitolo 21 e la sezione che questa sera leggeremo insieme va dal versetto 1 al versetto 26, che ovviamente noi divideremo in diverse parti. La prima parte è quella che va dal versetto 1 al versetto 6, dove Paolo nel suo viaggio di rientro verso Gerusalemme, a un certo punto si ferma nella città di Tiro. Ascoltiamo il testo. Appena ci fummo separati da loro, salpammo e per la via diretta giungemmo a Cos, il giorno seguente a Rodi e di qui a Patara. Trovata una nave che faceva la traversata per la Fenicia, vi salimmo e prendemmo il largo. Giunti in vista di Cipro, la lasciammo a sinistra e, navigando verso la Siria, sbarcammo a Tiro, dove la nave doveva scaricare. Avendo trovato discepoli, rimanemmo là una settimana, ed essi, per impulso dello Spirito, dicevano a Paolo di non salire a Gerusalemme. Ma quando furono passati quei giorni, uscimmo e ci mettemmo in viaggio, accompagnati da tutti loro, con mogli e figli, fino all'uscita della città. Inginocchiati sulla spiaggia pregammo, poi ci salutammo a vicenda. Noi salimmo sulla nave ed essi tornarono alle loro case. Ecco, questa è la prima tappa del viaggio che da Efeso, da Mileto, porta Paolo verso Gerusalemme. E vediamo che questa prima tappa trova il suo punto di sosta nella città di Tiro. Ora a Tiro si verifica qualcosa che si è già verificato nel saluto agli anziani di Efeso, ed è la seconda volta, cioè Paolo viene invitato a non salire a Gerusalemme, come se sullo sfondo si intraveda già il mistero della passione che si sta avvicinando per lui. Sappiamo che una volta che Paolo sarà arrivato a Gerusalemme, Paolo sarà messo in prigione ed inizia un lungo periodo di anni dove Paolo non avrà più libertà di movimento. È interessante notare come il testo evidenzi che le persone che si trovano radunate a Tiro, per impulso dello Spirito, dicono a Paolo di non salire a Gerusalemme. Una frase misteriosa, perché se l'impulso viene davvero dallo Spirito Santo, Paolo lo dovrebbe in qualche modo accogliere. Come si spiega questa cosa? Se le persone parlano per impulso dello Spirito Santo, come mai Paolo decide comunque di andare avanti? Ecco perché probabilmente un conto è quello che le persone sentono dentro di sé. Magari le persone dicevano che in nome dello Spirito gli comunicavano questo, e un conto è il discernimento che Paolo fa. In genere, quando si tratta di fare un discernimento su una scelta importante, le regole di gesuitica memoria che vengono indicate ai credenti sono sostanzialmente tre, cioè in genere le brave guide spirituali invitano i discepoli a farsi sempre una triplice domanda quando ci sono delle scelte difficili da farsi, ad un primo livello di discernimento. Prima di tutto, da dove viene la scelta che stai per fare? Nel caso di Paolo, da dove viene la scelta di andare a Gerusalemme? Per Paolo, ovviamente, questa scelta viene da Dio, perché fin dall'inizio del suo ministero lui ha deciso di andare a Gerusalemme alla fine di tutto il suo itinerario missionario, per un motivo ben preciso, quello di dimostrare la comunione tra le comunità da lui fondate e la Chiesa Madre. Quindi da dove viene il desiderio di andare a Gerusalemme? Viene da un desiderio di comunione, viene quindi da una motivazione sacrosanta. Seconda domanda che serve per il discernimento, seconda domanda è: dove porta questa tua scelta? La scelta porta, Paolo può ora rispondere perché è la seconda volta che gli viene segnalata la cosa, la scelta porta alla sofferenza, perché prima è emerso a Mileto, ora emerge a Tiro, tutti gli annunciano che Paolo sarà perseguitato. Ora, il fatto che questa cosa lo porti alla persecuzione non è per Paolo una cosa negativa. Noi sappiamo che man mano Paolo girava per le comunità, uno degli insegnamenti forti che lui portava è la centralità della croce e l'essere in tutto conforme a Cristo. Il fatto che tutti dicono che il suo viaggio lo sta portando verso la sofferenza e il dolore, per Paolo non è un segno che deve desistere, ma è un segno positivo, quindi sono cose dette per impulso dello Spirito, ma non per farlo fermare, ma per farlo continuare a camminare con più coraggio. Terza domanda che in genere serve per fare una scelta saggia è: quali sono i mezzi che dall'inizio alla fine ti permettono di realizzare questo compito? Cioè, tu che sei partito per andare a Gerusalemme, sai che là ti aspetta la sofferenza. Come stai vivendo questo viaggio? Paolo sta vivendo questo viaggio, può rispondere dicendo che sta vivendo questo viaggio con la disponibilità alla volontà di Dio. Non sa cosa là gli accadrà, però si affida nelle mani di Dio. Quindi vedete, le tre risposte che vengono date da Paolo sono tutte e tre risposte illuminate dallo Spirito. Quindi Paolo può fare, può confermare la sua scelta di camminare verso Gerusalemme nonostante tutti gli dicono di non fare questo passo. Proviamo ad applicare a noi questo criterio di discernimento. Dobbiamo fare una scelta importante. Ad esempio, pensiamo ad una coppia che sta vivendo un momento, come dire, di grande entusiasmo spirituale. La coppia decide di partire missionaria e di partire missionaria e di andare in Congo, dove la situazione sociopolitica, sappiamo, è molto delicata. Allora, proviamo a porre a questa coppia queste tre domande, cioè da dove viene questo desiderio? Possono rispondere dicendo: viene da un momento lungo di discernimento in cui insieme abbiamo deciso di partire per il Congo come coppia missionaria. Dove porta questo discernimento? Questo discernimento porta al fatto che noi possiamo dedicare la vita in una terra dove c'è tanto bisogno, partendo e andando lì. Quali sono i mezzi intermedi tra l'uno e l'altro? La coppia dice: no, noi partiamo, lasciamo i nostri figli e i nostri genitori, si occuperanno loro, lasciamo il nostro lavoro, non sapendo poi, tornando, se lo ritroviamo o meno, e partiamo. Capite bene che il da dove viene e dove porta sono positivi, ma quello che c'è in mezzo non è tanto positivo, nel senso che se uno lascia i propri figli e i genitori, non un pochino fa una scelta magari senza tener conto di tanti aspetti che possono essere attorno e che non rappresentano degli elementi positivi, capite bene che lì il discernimento ha bisogno perlomeno di fare dei passi di approfondimento, quindi non è bene fare una scelta in quel momento lì, perché le cose non sono del tutto chiare. Ecco, quando ci sono dei passaggi delicati è sempre importante fare un discernimento autentico, tenendo presente tutte le cose e soprattutto non decidere mai da soli. Se voi notate, in questo testo degli Atti degli Apostoli la persona verbale utilizzata è la prima persona plurale, non è un Paolo che decide da solo, c'è un noi in cammino e questo noi in cammino include lo stesso Luca. Quindi Luca ci sta dicendo che la scelta non è presa da una persona, ma dal gruppo, dal team missionario, facendo discernimento, verificando le cose, man mano le tappe vanno avanti, man mano le tappe procedono. Bene, dopo questa prima fase, questa prima tappa che vede il coinvolgimento di Paolo e dei missionari che arrivano a Tiro, ecco la seconda tappa, la seconda tappa che porta il gruppo dei missionari da Tiro a Cesarea. Sono i versetti da 7 a 14, quindi continuiamo nella lettura del testo. Terminata la navigazione, da Tiro approdammo a Tolemaide. andammo a salutare i fratelli e restammo un giorno con loro. Ripartiti il giorno seguente, giungemmo a Cesarea. Entrati nella casa di Filippo l'Evangelista, che era uno dei sette, restammo presso di lui. Egli aveva quattro figlie nubili, che avevano il dono della profezia. Eravamo qui da alcuni giorni quando scese dalla Giudea un profeta di nome Agabo. Egli venne da noi e, presa la cintura di Paolo, si legò i piedi e le mani e disse: «Questo dice lo Spirito Santo, l'uomo al quale appartiene questa cintura, i giudei a Gerusalemme lo legheranno così e lo consegneranno nelle mani dei pagani». All'udire queste cose, noi e quelli del luogo pregavamo Paolo di non salire a Gerusalemme. Allora Paolo rispose: «Perché fate così, continuando a piangere e a spezzarmi il cuore? Io sono pronto non soltanto a essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù». E poiché non si lasciava persuadere, smettemmo di insistere dicendo: «Sia fatta la volontà del Signore». Ecco, mentre Paolo arriva a Cesarea per la terza volta, ecco nuovamente il segno che gli annuncia quello che sta per avvenire. Il segno è riportato da un profeta, Agabo, che era già stato menzionato al capitolo 11 degli Atti degli Apostoli, quando Paolo, nel contesto di Antiochia, era stata annunciata una grave carestia per Gerusalemme, una grave carestia che avrebbe colpito la Giudea e soprattutto la Chiesa Madre di Gerusalemme. E in occasione di quella carestia, Paolo e Barnaba avevano preso la decisione di raccogliere dei fondi nelle loro comunità per soccorrere la Chiesa Madre. Guarda caso, Agabo torna in scena ancora una volta nel momento in cui la colletta è al centro, perché questo viaggio a Gerusalemme non era solo il segno concreto di un Paolo che alla fine del suo itinerario missionario in tutte le chiese che aveva fondato in Asia, in Macedonia, in Grecia, ora ritornava a Gerusalemme per affidare il suo apostolato comunque alla Chiesa Madre, riconoscendo un'autorità morale di questa Chiesa anche su quelle che erano le sue comunità cristiane. Ma questo segno di comunione era anche un segno concreto. E Paolo porta a Gerusalemme la colletta, quella colletta di cui si parla nella corrispondenza con i Corinzi, soprattutto nella seconda lettera ai Corinzi, i capitoli 8 e 9, sono tutti dedicati alla colletta. Paolo avverte che ha fatto una raccolta di fondi a Corinto, in Galazia, presso i Filippesi, presso i Tessalonicesi, e tutti questi fondi vengono portati a Gerusalemme per aiutare una comunità che si trova in grosse difficoltà economiche, per diverse ragioni, perché è giunta la carestia. Ora ecco che questo profeta che aveva annunciato questa cosa torna in scena ora, proprio ora, come ecco, una parola autorevole e valida, perché l'Antico Testamento dice chiaramente: voi riconoscerete, il libro dell'Esodo lo dice, voi riconoscerete il profeta quando le sue parole si realizzeranno, allora saprete che quello è un vero profeta. Ora Agabo, siamo certi, è un vero profeta, perché quella carestia che lui aveva annunciato effettivamente si era verificata. Ora non annuncia più una carestia che è in atto, annuncia invece che Paolo sarà legato e usa la sua cintura per dire che sarà legato con mani e piedi. È la terza volta che Paolo riceve l'annuncio della sua passione, della sua prigionia. Ecco perché gli studiosi ritengono che dietro i capitoli 20 e 21 Luca voglia in qualche modo presentare il ministero di Paolo come un parallelismo con il ministero di Gesù. Come nel caso di Gesù c'è stata i cosiddetti annunci della passione, morte e risurrezione, così nel caso di Paolo ci sono gli annunci della sua prigionia, è la cosiddetta Passio Pauli. Come Gesù aveva i suoi discepoli che cercavano in qualche modo di dirgli: no, questo non ti accadrà mai, Ugualmente Paolo ha i fratelli delle comunità da lui fondate che cercano di farlo desistere, di non farlo andare a Gerusalemme. Come Gesù rimprovera Pietro e gli dice: lungi da me Satana, perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Così Paolo si rivolge ai fratelli di Cesarea e dice: perché fate così, continuando a piangere e a spezzarmi il cuore? Io sono pronto non soltanto a essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. Ed ecco che alla fine tutto si conclude con quella frase: sia fatta la volontà del Signore. E sappiamo qual è la pregnanza di questa frase all'interno della narrazione lucana. È una frase che richiama il fiat per eccellenza, quello di Maria: sia fatta la volontà del Signore, sia fatta la tua volontà, avvenga di me quello che tu hai detto. Lo stesso sembra dire Paolo: avvenga di me quello che tu hai detto. Quindi capiamo molto bene come questo avvicinarsi alla Chiesa Madre di Gerusalemme acquisisce per Luca che narra, ma anche per Paolo, un profondo momento di conformazione al suo maestro. Ricordiamoci sempre: al centro della teologia di Paolo, al centro del suo annuncio, c'è sempre questo messaggio: la vita cristiana è un cammino di conformazione a Gesù, e questo cammino di conformazione a Gesù qui lo ritroviamo pienamente trascritto, pienamente proposto in questo modo da Luca nella narrazione degli Atti degli Apostoli. Ora, cari ascoltatori, facciamo un breve stacco musicale prima di percorrere insieme l'ultima parte di questo cammino che conduce Paolo da Mileto, dagli anziani di Mileto, alla città di Gerusalemme. Ecco, durante lo stacco musicale vi suggerisco di rileggere questi versetti dall'1 al 14, in modo che poi possiamo continuare con la lettura dei versetti dal 15 al 26, ascoltando cosa succede a Paolo a Gerusalemme. Quindi chiedo alla regia di mandare il breve stacco musicale. Allora, torniamo al nostro testo vedendo come prosegue il viaggio di Paolo e leggiamo i versetti dal 15 fino al 20. Dopo questi fatti i preparativi, salimo a Gerusalemme. Vennero con noi anche alcuni discepoli da Cesarea, i quali ci condussero da un certo Mnasone di Cipro, discepolo della prima ora, dal quale ricevemmo ospitalità. Arrivati a Gerusalemme, i fratelli ci accolsero festosamente. Il giorno dopo Paolo fece visita a Giacomo insieme con noi. C'erano anche tutti gli anziani. Dopo aver rivolto loro il saluto, si mise a raccontare nei particolari quello che Dio aveva fatto tra i pagani per mezzo del suo ministero. Ecco, eccoci finalmente arrivati a Gerusalemme. Notiamo che durante il viaggio verso Gerusalemme Paolo si ferma nella casa di questo Mnasone di Cipro, un nome molto, molto chiaro, cioè un nome greco che dice la provenienza pagana di questa persona. Quindi Paolo trova facilmente accoglienza nella casa di un pagano, che è un po' l'emblema anche di tutte le comunità che hanno caratterizzato, che sono nate dal ministero di Paolo. Paolo lo dirà molto bene arrivando a Gerusalemme: lui riferisce tutto quello che il Signore ha compiuto tra i pagani per mezzo del suo ministero. Il ministero di Paolo si è svolto nella parte pagana dell'impero. Questo non significa che non c'erano comunità ebraiche laddove Paolo è passato, però erano delle comunità minoritarie. Non invece, questo invece non si era verificato per quella parte di impero dove si erano rivolti Giacomo o Pietro, dove le comunità ebraiche invece rappresentavano una maggioranza. Alcuni si chiedono come mai Paolo abbia fatto il tragitto anche in barca laddove lo poteva fare via terra. Probabilmente perché via mare era molto più sicuro viaggiare a motivo della colletta che aveva con sé, anche se era un gruppo, però il fatto di portare diversi soldi con sé, allora la via terra, ecco, era molto più pericoloso perché si era esposti molto di più agli attacchi di briganti o malintenzionati. Via mare le cose erano un pochino più semplici, anche se bisognava aspettare i tempi adatti per la navigazione. Quindi questa navigazione a un certo punto termina, da Cesarea Paolo scende a piedi e il testo ci dice che a Gerusalemme i fratelli ci accolsero festosamente, Deo gratias, perché non era così scontato che i fratelli accogliessero festosamente Paolo. Quando nella lettera ai Romani Paolo annuncia il suo viaggio verso Gerusalemme, invita la comunità, nella lettera che scrive, a pregare per il suo viaggio a Gerusalemme, che è proprio questo viaggio qui. Dice: perché non sono sicuro dell'accoglienza che mi possono fare. Come mai Paolo arriva con un po' di trepidazione nella Chiesa Madre di Gerusalemme? Perché il Vangelo di Paolo e il Vangelo che veniva annunziato dalla Chiesa Madre di Gerusalemme avevano delle sfumature un pochino diverse. Se il Vangelo cosiddetto di Giacomo, cioè il Vangelo della Chiesa Madre di Gerusalemme, che è guidata ora da Giacomo, non l'apostolo, ma il parente di Gesù, se il Vangelo di Giacomo della Chiesa Madre di Gerusalemme punta soprattutto sugli insegnamenti del Maestro, facendo di Gesù un grande maestro, autorevole, e quindi qualifica anche la comunità come un gruppo di discepoli all'interno dell'ebraismo, come esistono altri gruppi all'interno dell'ebraismo, quindi si identificava come un gruppo all'interno dell'ebraismo. Il Vangelo di Paolo, portato da Paolo, è un Vangelo che tocca l'identità di Gesù, è un Vangelo non di Gesù, non riguarda tanto i suoi insegnamenti, certo riporta anche i suoi insegnamenti, ma è tutto fissato sulla sua persona, è la sua persona che è proclamata non solo come Signore risorto, ma anche come Messia e come figlio di Dio. Ecco, la figura, il Vangelo portato da Gesù, da Paolo, scusate, non può essere, non può configurare delle comunità che si presentano come una setta all'interno dell'ebraismo, perché sono in genere comunità di pagani convertiti che non vivono fino in fondo le prospettive della legge. Quindi si qualifica come un culto a sé, una forma di religiosità a sé, che è distaccata, che si distacca progressivamente dall'ebraismo, pur condividendone alcuni punti importanti. Quindi sono due modi di vedere un pochino diversi, che pian piano nella storia del cristianesimo si integreranno e diventeranno complementari l'uno all'altro. Ma nel tempo in cui vive Paolo, nel momento in cui viene descritta questa scena, non è così scontato che le due visioni si capissero al volo. Tanto vero che dopo l'accoglienza festosa i timpani e le danze smettono molto presto, e lo veniamo a scoprire dai versetti che seguono, cioè dal versetto 20 fino al versetto 26. Ascoltiamo il testo. Come ebbero ascoltato, davano gloria a Dio. Poi dissero a Paolo: tu vedi, fratello, quante migliaia di giudei sono venuti alla fede e sono tutti osservanti della legge. Ora, hanno sentito dire che di te che insegni a tutti i giudei sparsi tra i pagani di abbandonare Mosè, dicendo di non circoncidere più i loro figli e di non seguire più le usanze tradizionali. Che facciamo? Senza dubbio verranno a sapere che sei arrivato. Fa dunque quanto ti diciamo. vi sono fra noi quattro uomini che hanno fatto un voto. Prendili con te, compi la purificazione insieme a loro e paga tu per loro perché si facciano radere il capo. Così tutti verranno a sapere che non c'è nulla di vero in quello che hanno sentito dire, ma che invece anche tu ti comporti bene osservando la legge. Quanto ai pagani che sono venuti alla fede, noi abbiamo deciso e abbiamo loro scritto che si tengano lontani dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, da ogni animale soffocato e dalle unioni illegittime. Vedete, subito dopo l'accoglienza festosa emerge subito il problema di avere Paolo a Gerusalemme. E allora i fratelli lo mettono in guardia da alcune cose. Prima di tutto gli dicono, qua si sente dire che tu vai predicando cose assurde. Praticamente dicono che tu obblighi tutti i giudei sparsi tra i pagani ad abbandonare Mosè, dicendo di non circoncidere più i loro figli e di non seguire le usanze della tradizione. Ora sappiamo che Paolo non insegnava questo. Paolo diceva ai pagani che non era il caso che loro si circoncidessero e non era nemmeno il caso che loro applicassero tutte le prescrizioni scritte dalla legge, ma non obbligava i giudei ad abbandonare quello in cui loro credevano e avevano sempre vissuto. Potevano continuare a crederlo, l'importante è che la salvezza non fosse legata alla legge, cioè non è che perché uno osservava tutti i comandamenti prescritti nella legge la salvezza era garantita, la salvezza aveva bisogno dell'accoglienza del Cristo, di far crescere il Cristo dentro di sé. Se il Cristo non si formava dentro i credenti, la salvezza non poteva provenire dalla legge. Quindi vedete già che viene riportata a Paolo una diceria del tutto falsa. Seconda cosa, c'è il timore della comunità. La comunità di Gerusalemme non sta vivendo un periodo facile, sta vivendo anche lei un periodo di persecuzione. Giacomo, che si trova a guidarlo dopo che Pietro se n'è dovuto andare per avere salva la vita, Giacomo deve fare un po' di opera di mediazione. È uno conosciuto nelle classi sacerdotali, però riesce a tenere la situazione in equilibrio solo se dimostra che tutti quelli che sono all'interno della Chiesa Madre di Gerusalemme sono osservanti della legge. Ora è arrivato Paolo e Paolo non ha senz'altro una buona fama presso le autorità religiose di Gerusalemme. Senza dubbio verranno a sapere che sei arrivato, gli dice, no? Quindi cosa ti consigliamo di fare? Quello che gli consigliano di fare per Paolo è un vero e proprio sacrificio. Perché? Praticamente chiedono a Paolo di sostenere le spese di quattro persone che devono sciogliere il voto di nazireato, il voto di nazirei. Noi sappiamo che quando una persona veniva dai territori pagani, Paolo sta arrivando dai territori pagani, doveva compiere dei riti di purificazione al tempio. Almeno il terzo e il settimo giorno dopo il suo arrivo doveva fare delle abluzioni con acqua per liberarsi da tutto quello che è di impurità che si era accumulato sul suo corpo in tutto il periodo in cui era stato in territorio pagano. Ora, Giacomo di Gerusalemme e quelli della sua parte gli dicono: guarda, non basta questa cosa qui, se vuoi dimostrare che tu non sei contrario alla legge. Serve un'altra cosa, ci sono qui quattro persone che devono sciogliere il voto di nazireato, vai con loro e paghi i loro sacrifici, così vedranno che tu osservi la legge. Mettiamoci nei panni di Paolo. Per Paolo tutti questi riti erano diventati un pochino secondari, tuttavia sa di essere in un momento delicato, che è quello di portare tutto il suo ministero alla Chiesa Madre di Gerusalemme. Quindi accetta. Ma che cosa accetta? Accetta di compiere un rito ben preciso. Ascoltiamo nel libro dei Numeri al capitolo 6 cosa comporta questo rito. Allora, noi sappiamo in partenza che Paolo è arrivato a Gerusalemme con una colletta, cioè con dei fondi economici che non è stato facile raccogliere. Sono dei fondi economici che a lui hanno, che per lui sono stati motivo di sacrifici, di fatiche, di tensioni con le comunità e anche sono il segno di tanta generosità da parte di fratelli che non è che vivevano nell'oro. Le comunità cristiane della prima ora di nobili non è che ce n'erano molti, quindi dietro quella colletta ci sono tanti sacrifici. Ora Paolo deve sostenere le spese di quattro persone che devono sciogliere il voto di nazireato. Ora ascoltiamo cosa comporta lo scioglimento del voto di nazireato. Siamo nel libro dei Numeri al capitolo 6. Questa è la legge per il nazireo. Quando i giorni del suo nazireato saranno compiuti, lo si farà venire all'ingresso della tenda del convegno. Egli presenterà l'offerta al Signore. Qual è l'offerta? Ascoltiamo. Un agnello dell'anno, senza difetto, per l'olocausto. Quindi un agnello dell'anno senza difetto doveva essere bruciato interamente. Poi, una pecora dell'anno senza difetto per il sacrificio per il peccato. Quindi prima un agnello, poi una pecora. Terzo, un ariete senza difetto come sacrificio di comunione. Sacrificio di comunione era quello che poi la carne veniva condivisa con altre persone che salivano per il sacrificio. Quindi un agnello, una pecora, un ariete. Ma non è finita qui. Un canestro di pani azimi di fior di farina, di focacce impastate con olio, di schiacciate senza lievito unte d'olio, insieme con la loro oblazione e le loro libagioni. Che cos'erano le libagioni? Le libagioni erano dei liquidi spesso preciati come il vino che venivano versate su queste offerte. Il sacerdote le offrirà davanti al Signore e compirà il suo sacrificio per il peccato e il suo olocausto. Offrirà l'ariete come sacrificio di comunione al Signore, oltre al canestro degli azimi. Il sacerdote offrirà anche l'oblazione e la sua libagione. Il nazireo raderà all'ingresso della tenda del convegno il suo capo consacrato, prenderà la capigliatura del suo capo consacrato e la metterà sul fuoco che è sotto il sacrificio di comunione. Il sacerdote prenderà la spalla dell'ariete quando sarà cotta, una focaccia non lievitata dal canestro e una schiacciata azima e le porrà nelle mani del nazireo, dopo che questi avrà rasato la capigliatura consacrata. Il sacerdote le presenterà con il rito di elevazione davanti al Signore, è cosa santa che appartiene al sacerdote, insieme con il petto della vittima offerta con il rito di elevazione e la coscia della vittima offerta come tributo. Dopo, il nazireo potrà bere vino. Questa è la legge per il nazireo che ha promesso la sua offerta al Signore per il suo nazireato, oltre quello che è in grado di fare in più secondo il voto che avrà emesso. Così egli farà quanto alla legge del suo nazireato. Quindi vedete l'abbondanza di cose che uno doveva comprare. C'erano una pecora, un agnello, un ariete, le focacce, pani azimi, questi liquidi e tutto per quattro persone. Ora io non so quanto Paolo avrà portato come colletta, però sicuramente chiedere a Paolo che ha fatto dei sacrifici così grandi per soccorrere la Chiesa Madre di Gerusalemme di usare buona parte di questa colletta per dei riti, per delle persone che magari lui manco conosceva, per osservare la legge, è chiaro che era un gesto forte, cioè una richiesta di obbedienza forte per Paolo. E Paolo accetta. Il fatto è che mentre lui sta compiendo queste cose, avverrà proprio il suo arresto. Ma questo è un aspetto che avremo modo di vedere la volta prossima. Ecco, quello che mi interessa sottolineare in questa sede è notare proprio come Paolo, arrivando a Gerusalemme, viene messo proprio di fronte alla differenza palese tra le comunità da lui fondate e la Chiesa Madre di Gerusalemme. La Chiesa Madre di Gerusalemme, nonostante siano passati gli anni, è ancora fondata attorno all'osservanza della legge, per tanti motivi. Sicuramente ci sono anche dei motivi politici, dei motivi socioculturali legati a quel tempo, c'è la sua composizione, però non sembra aver fatto grandi passi in avanti. Per la Chiesa Madre di Gerusalemme Gesù è il perno con i suoi insegnamenti che vengono a portare a compimento la legge, ma non c'è ancora quel passo in avanti che invece è stato scandito nelle comunità di Paolo, comunità in gran parte di origine pagana, dove Gesù è il senso di ogni cosa, è il senso di tutto, dove il cristianesimo ha assunto un'identità molto chiara nei confronti del giudaismo, distinguendosi da esso. Quindi ci troviamo di fronte ad un faccia a faccia tra Paolo e Giacomo, in un momento in cui l'identità cristiana non ha ancora acquisito la sua forma completa. Abbiamo, come dire, due visioni che devono ancora diventare complementari. Ora, tutto questo sarà possibile solo con il percorso successivo nella vita di Paolo. Per tutto questo cammino saranno proprio necessari quei lunghi periodi di Paolo in prigione che permetteranno, come dire, di dare veridicità al suo ministero, veridicità al suo legame con Cristo e a quanto Cristo sia importante nella vita dell'Apostolo, non solo per quanto lui ha insegnato, ma per la sua persona. Inizierà a Gerusalemme la fase più difficile del ministero di Paolo, perché inizia quel percorso di passione, morte e risurrezione che prima ha toccato il Maestro. Se per Gesù questo è durato sostanzialmente 3 giorni, per Paolo durerà degli anni, anni complessi, difficili, che però permettono al suo annuncio di ricevere il sigillo di quella croce che lui ha sempre annunciato. Ecco, cari ascoltatori, quello che questo capitolo ci consegna. Ora, come nelle nostre puntate, come siamo soliti fare nelle nostre puntate, la seconda parte, gli altri 45 minuti, sono lasciati ai vostri interventi. Come sapete, la richiesta è quella di fare delle domande, di porre degli interrogativi che siano il più possibile inerenti al tema che abbiamo svolto. Potete porre delle domande, potete fare delle considerazioni, rimanendo, ecco, possibilmente nella brevità, in modo da toccare o far notare alcuni aspetti che possono essere sfuggiti durante la mia lezione. Come dicevano bene i maestri della Torah, ogni testo può avere tante letture, tante sfumature, quanti sono i giorni dell'anno, quanti sono i giorni della vita che ci sono concessi, cioè migliaia sono le possibili sfumature di un testo. E quando un testo viene visto da diversi punti di vista, anche attraverso una domanda, anche attraverso una considerazione, le luci su quel testo si moltiplicano. Ed è proprio quello che vogliamo fare nella seconda parte della nostra trasmissione. Ci sentiamo quindi tra breve. Pronto? Ah, buonasera. Buonasera. Io la ringrazio tanto e ascolto sempre volentieri le lezioni, però una cosa volevo chiedere, quando si ascolta queste cose, al di là delle vicende di Paolo, può essere anche la vita di Gesù, o in Quaresima per esempio c'è anche un ascolto della parola più assiduo, mi dicono sempre che per capirle veramente devi andare oltre, devi avere uno sguardo contemplativo, usano questo termine, e magari io penso, non so, ai ritiri, quelle cose lì, e mi hanno detto che non è questo. Mi può spiegare cosa si intende per sguardo contemplativo e quindi riuscire a capirle meglio? L'ascolto alla radio, grazie. Prego. Allora, ringraziamo questa ascoltatrice che tocca uno degli aspetti importanti anche della nostra trasmissione, espresso anche dal titolo, no? La tua parola mi fa vivere. Ci sono delle modalità diverse di approccio a un testo. C'è l'approccio dello studio, quindi che è importante. Uno accosta il testo, cerca di capire il contesto in cui il testo è nato, quali sono le vicende storiche che ci stanno dietro, quali sono le problematiche, e in genere, ecco, ogni tipo di lezio cerca anche di illustrare questi aspetti. C'è una lettura, narrativa, grammaticale, letteraria, dove non si è tanto attenti al testo, al contesto, ma al modo in cui magari il narratore svolge la narrazione del testo biblico. C'è una lettura spirituale, dove si è attenti a ciò che lo spirito vuole dire attraverso quel testo, e quindi in genere la lettura spirituale chiede la totale profondità da parte dell'uomo nello scavare il testo, quindi la necessità da parte nostra di studiarlo, però dall'altro anche la disponibilità a quello che lo spirito dice, cioè quelle luci che lo spirito nella lettura, nello studio accende in noi per capire meglio il testo. E poi c'è un livello ancora superiore che è la lettura contemplativa. Che cos'è la lettura contemplativa? È quella che cerca di contemplare il volto del Signore in quel preciso brano. Nel brano che, ad esempio, questa sera abbiamo insieme meditato, qual è il volto del Signore che traspare? È il volto del Signore che rivive in Paolo i suoi annunci di passione, morte e risurrezione. È il volto del Signore che nel Getsemani dice sia fatta non la mia, ma la tua volontà. È il volto del Signore che prende lentamente forma nella comunità dei credenti passando per un processo di crescita. Paolo dirà ai Galati, no? Io vi partorisco nel dolore finché il Cristo prenda forma in voi. E quando qualcuno prende forma in noi, non è che da un giorno all'altro diventa adulto, ci vogliono degli anni, ci vuole del tempo, e quindi contemplare questo Cristo che pian piano cresce in noi, come è cresciuto in Giacomo, guida della Chiesa Madre di Gerusalemme, come è cresciuto in Paolo. Pensiamo anche ai momenti di tensione tra Paolo e Giacomo. Ora invece tra i due c'è un tentativo di comprensione vicendevole, di protezione vicendevole, pur nelle diversità di prospettive, perché il cristianesimo, la fede cristiana sta prendendo forma. Quindi cercare di contemplare il volto di Dio, vedere la presenza del Signore in tutto questo. Faccio un'altra applicazione molto concreta, no? Quando noi ci troviamo davanti a un testo biblico, capita spesso durante le lezioni, no? Che chi guida dice, ecco, adesso ci poniamo la domanda, che cosa dice a me questo testo? Attenzione, prima di arrivare a quella domanda, che cosa dice a me questo testo, è importante contemplare il volto di Dio, cioè cosa dice di Dio questo testo, cosa dice di Gesù questo testo, cosa dice del tratto dell'amore di Dio questo brano. Prima di applicare a noi dobbiamo contemplare, perché è necessaria questa fase previa, perché altrimenti noi rischiamo di ricadere nella logica della legge, delle norme, dei comandamenti, dove la vita cristiana cade in una sorta di moralismo. Invece no, la vita cristiana è una vita che è per eccellenza una via mistica. Mistica significa di contemplazione, dove tu contempli l'azione del Cristo dentro di te. Ovviamente queste sono delle spiegazioni fatte a voce, però uno può capire con profondità tutto questo nel momento in cui cerca di applicarlo, di viverlo, no? Quando uno si raccoglie in preghiera e medita su un testo, prendiamo ad esempio il Vangelo del giorno, uno si raccoglie davanti all'Eucaristia e medita quel testo e si pone proprio la domanda di dire: cosa mi dice questo testo di te, o Signore? E vedrete che se voi vi mettete con calma, senza mettere fretta al testo, senza forzare lo spirito, ma vi mettete con calma, nell'atteggiamento di disponibilità, vedrete che le luci arrivano e vi aiutano proprio a rispondere a questa domanda, percependo la presenza di un Signore che cresce in voi. Ecco, io come risposta alla domanda della nostra ascoltatrice direi questo. Grazie per aver chiamato e per aver posto questo interrogativo. Pronto? Pronto, buonasera. Dunque, mi chiamo Alessandro e chiamo da Roma. E volevo sentire la sua opinione in merito a alla questione dei sacrifici e dell'ultima cena. Mi ricordo che Papa Benedetto XVI, nella Domenica delle Palme del 2007, alla fine della sua udienza, dal balcone disse che Gesù non aveva mangiato l'agnello. Ora, la cosa fu abbastanza eclatante e andò su tutte le pagine dei giornali. E questo in linea, poi non se ne è più parlato, perché poi Benedetto XVI abdicò, insomma, tutto quello che è successo. Questo in linea con quanto lui ha scritto nel suo Gesù di Nazareth, dove ha preso in seria considerazione il fatto che non fosse una cena classica della Pasquale, ma era una cena essena. Questo l'ha scritto Benedetto XVI, prende in considerazione questa tesi, che è ampiamente spiegata da Monsignor Cacciani in un bellissimo libro che si chiama Ultima Cena dagli Esseni, delle edizioni mediterranee. Io volevo sapere da lei che cosa ne pensa, perché già il priore di Bose Bianchi su Radio 3 l'altro anno prima di Pasqua ha preso una netta posizione per una cena essena. Quindi ci sono ampie prove che tra l'altro l'ultima cena è avvenuta nel quartiere degli Esseni, quindi ci sono molte prove che era davvero una cena della tradizione ebraica, ma tradizionale, ma essena. Io volevo sapere lei che cosa ne pensava. Allora, la ringrazio Alessandro per questa sua domanda. Lei mi ha fatto la domanda e ha già dato la risposta, nel senso che ha citato diverse fonti, da Bianchi al testo Gesù di Nazareth di Benedetto XVI, ad alcuni studiosi. Gli studi in merito ce ne sono di diversi e di diversa provenienza, dal mondo spagnolo a quello francese a quello americano, diverse sono le posizioni. Questa possibilità effettivamente c'è, però al di là delle diverse possibilità, e in questa direzione va soprattutto il Vangelo di Giovanni, il Vangelo di Marco vanno soprattutto in questa direzione, però la domanda che noi ci dobbiamo porre, no? È: ok, una volta che è la cena essena, cosa cambia per noi? Perché il punto alla fine è questo qui, che sia la cena pasquale o che sia la cena essena, che cosa è importante per noi di quell'ultima cena di Gesù con i suoi discepoli? Quello che è importante per noi è che in quel momento Gesù vive il testamento più grande, l'insegnamento per eccellenza della sua missione, e comunque riconosce in quel momento celebrativo la nuova alleanza in cui culmina la Pasqua antica. Ora, se quella è una cena e cena che poi alcuni evangelisti, pensiamo a Matteo o Luca, hanno riletto come la cena pasquale, perché hanno fatto questa operazione? Proprio per associare la nuova alleanza alla nuova Pasqua vissuta da Gesù. Ed è quello che noi come tradizione cristiana, dal punto di vista liturgico, di secolo in secolo, fino ai nostri giorni, abbiamo trasmesso. Quindi, al di là di sapere se era una o l'altra, c'è sempre, come dire, un margine di mistero che resta aperto. Chiaramente sembra che gli studi vadano molto di più in quella direzione, però quello che è importante è tirare le fila. Cosa alla fine questo vuol dire? Cosa alla fine questo vuol dire? Perché il punto delicato di alcune posizioni non è sapere una cosa o l'altra, ma cosa se ne tira, cosa si fa dire a questa cosa qui. Perché chiaramente se Gesù era vicino alla comunità essena, la comunità essena aveva alcune particolari posizioni nei confronti delle autorità religiose, del Tempio, una certa visione del popolo di Dio, possiamo dire che Gesù condivida queste posizioni della comunità essena verso i sacerdoti, verso il Tempio, verso la visione del popolo di Dio? Ecco, su questo io sarei un pochino perplesso, nel senso che la visione di Gesù è una visione molto universale che supera i settarismi del giudaismo del primo secolo e va molto oltre. Questo ovviamente non impedisce di dire che lui non ha adottato il calendario del tempo, però l'importante è quello che alla fine si fa dire a queste cose. E su questo Benedetto XVI chiaramente è stato molto chiaro, molto profondo e anche molto prudente nel poi tirare le fila, cioè l'elemento, il succo poi del suo discorso è stato quello che la tradizione liturgica nei secoli ci fa celebrare ogni anno nel contemplare in quella cena appunto la nuova Pasqua che Gesù sta vivendo e che compirà nel mistero della passione, morte e risurrezione. Grazie Alessandro per la sua domanda, ecco, invito gli ascoltatori a restare sul tema che abbiamo trattato, cioè il focus non è la Quaresima, per la quale ci sono altre trasmissioni, non è l'ultima cena di Gesù, ma è Paolo. Cerchiamo di approfondire insieme questo grande apostolo che spesso magari ha un pochino anche dimenticato la domenica, cioè la sua seconda lettura non viene mai commentata. Proviamo a soffermarci su di lui, cercare di capire lui, approfondire lui, in modo anche che queste trasmissioni diventano complementari ad altre a cui Radio Maria giustamente dà già ampio spazio. Grazie Alessandro. Pronto, buonasera. Sì. Io chiamo da Roma, mi chiamo Cesira, e intanto mi scuso di partenza perché non sono così dotta da porre delle cose così profonde, eccetera, però dal punto di vista pratico probabilmente io sono una persona molto terra terra, non so, ma ad esempio l'incompatibilità diciamo tra l'ebraismo e il cattolicesimo, l'essere cristiani, il cattolicesimo, parte da cose esempio, ad esempio gli ebrei per prima del pasto si lavano le mani, è chiaro, e non credo che non farlo sia una grossa mancanza, comunque è una cosa che è un mancato adempimento a delle regole che loro hanno, e così altre cose, non so, scrivere di sabato, che non è un lavoro, però è tale considerato e quindi non si deve fare, eccetera. Quindi se l'incompatibilità risiede più su questo piano, ma sicuramente invece è un piano, invece il perdono e la misericordia sono su un piano completamente diverso, morale, spirituale, quindi ecco, e quindi non so in che cosa, a parte che gli ebrei naturalmente non riconoscono in Gesù il Messia, e quindi questa è già una difficoltà a farli aderire diciamo a certi ragionamenti, appunto anche a sfondo morale, spirituale. Quindi vorrei sapere in che cosa può consistere questa discordanza, questa differenza tra le due, cioè far amalgamare i due principi, non so come chiamarli, ecco, la mia proprietà di linguaggio lascia molto a desiderare, mi scusi. Cara Cesira, la ringrazio della domanda, ma nessuno in questa sede ha parlato di incompatibilità, assolutamente non c'è nessuna forma di incompatibilità, c'è un discorso di continuità che però a un certo punto chiede, come dire, un salto di, cioè sì, è una continuità che a un certo punto richiede un salto. Mi spiego, cioè il brano che noi abbiamo meditato, letto, commentato questa sera, si pone in un momento della storia cristiana dove l'identità cristiana non si è ancora sviluppata nella sua pienezza. Il mistero viene approfondito sempre di più con il contributo di quelle che erano le colonne della Chiesa, all'interno della quale si aggiunge Paolo. Però pian piano il cristianesimo sta diventando da una setta interna all'ebraismo, cioè da un modo di intendere l'ebraismo, ad un movimento a sé, che trova il suo centro, il suo punto di riferimento, non più nella legge, non più nel Tempio, che a Gerusalemme erano i riferimenti essenziali del popolo di Dio, non più in una visione dove tutti dovevano salire a Gerusalemme per ottenere la salvezza, ma il perno diventa il Cristo, cioè si passa da una visione dove la legge è al centro ad una visione dove c'è la persona di Cristo che è al centro e dove il tema della passione, morte e risurrezione diventano il perno del credo cristiano, dove Gesù è il Messia che ha sofferto, è morto ed è risorto, colui che era stato annunciato dai profeti che ora tornerà nella gloria per manifestare la pienezza del suo volto. Quindi è una visione della fede totalmente diversa, perché ciò porta a una rilettura completa dell'Antico Testamento nell'ottica di Cristo. Ora, pur in questo salto esiste una continuità, cioè il cristianesimo non potrebbe vivere senza l'ebraismo che è alla sua base. Il Nuovo Testamento senza l'Antico non può sussistere, perché ci mancherebbe tutta quella pedagogia divina che aveva già mostrato ciò che Gesù poi ha vissuto e compiuto in pienezza. Quindi c'è questa continuità. Ora, a un certo punto in Cristo questa continuità assume una nuova luce. Quindi nel confronto tra Giacomo e Paolo emerge chiaramente che la Chiesa Madre di Gerusalemme ha ancora un passo da fare, così come probabilmente le chiese di Paolo hanno anche loro un punto su cui equilibrarsi un pochino, che è quello di recuperare tutto quello che la tradizione ha consegnato alla Chiesa Madre di Gerusalemme. Ecco perché Paolo sente così importante alla fine del suo ministero comunque portare le sue comunità nella Chiesa Madre di Gerusalemme, perché non vuole che le sue comunità partano, senza avere sullo sfondo il tesoro di grazia che è stato loro consegnato dall'ebraismo. Ecco, su questo penso che i capitoli 9, 10, 11 della lettera di Paolo ai Romani siano molto espliciti, cioè sono proprio quei capitoli che affrontano anche attraverso il linguaggio delle immagini tutto questo mistero, il mistero del rapporto tra le comunità in Cristo e le comunità di Israele che poi hanno aderito a Cristo. Grazie di cuore, Cesira, per la sua domanda. Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parlo? Con Antonio da Orvassano. Mi dica, Antonio. Buonasera. Dunque, volevo solamente chiedere due cose. Innanzitutto ringraziare Dio per avermi fatto leggere le 13 lettere di Paolo. Per me Paolo è stato quello che mi ha smosso e mi ha insegnato a leggere poi i Vangeli. Una voce così bella e così venuta da Dio che dice: state sereni, pregate sempre e ringraziate Dio in ogni situazione. Poi un'altra frase molto bella: gareggiate nello stimarvi a vicenda. Io l'ho detto a tante giovani coppie in chiesa, a dei ragazzi che stavano per sposarsi, e mi hanno ringraziato per questo messaggio. Poi volevo dire una cosa ancora, che San Paolo nelle nostre chiese qui in Piemonte, specialmente a Orvassano, dove ora abito, tutte le volte il parroco, il prete, cita la seconda lettura di Paolo, sempre, che il Papa Francesco lo mette sempre in evidenza. E poi un'ultima cosa, che dice appunto gareggiate quello, e poi quando la famosa lettera della lettera d'amore, come inno all'amore, è una poesia stupenda. Voi giovani, tutti leggiamo Paolo, è una forza di Dio. Boh, non ho altro da dire, altrimenti ne avrei da dire per tutta la notte. Grazie. Grazie di cuore, Antonio, per la tua testimonianza. Faccio eco a quanto lei ha detto con una piccola sottolineatura, no? Il nostro Antonio ci ha citato l'inno alla carità, no? Della prima lettera ai Corinzi, il capitolo 13, scelto da tante coppie, no? Durante la celebrazione delle nozze. Ecco, a volte dimentichiamo che questo inno nasce nel cuore di un rapporto travagliatissimo tra Paolo e la comunità di Corinto. Eppure in questo rapporto così travagliato, pensate che un grande studioso di Paolo e della comunità di Corinto come Jerome Murphy O'Connor, che è un domenicano, scrisse che Corinto è stata la comunità più snervante per l'apostolo Paolo, perché è quella che gli ha dato più filo da torcere insieme a quella di Efeso. Eppure, anche se questa era la comunità che l'ha fatto soffrire di più, che gli ha fatto scrivere una lettera tra le lacrime, che è stata snervante nei suoi confronti, proprio scrivendo a loro, Paolo compone l'inno alla carità, l'inno all'amore. E allora questo inno diventa davvero una perla, perché ci fa capire come quando l'amore di Cristo è vissuto fino in fondo, sa superare ogni ostacolo e sa aiutare anche ad affrontare le situazioni più difficili. Grazie di cuore, Antonio, per la tua testimonianza e anche per le belle frasi di Paolo che doni a quanti ti contattano. Cari ascoltatori, dalla regia mi dicono che questa sera il tempo a nostra disposizione è terminato, quindi ringrazio quanti di voi sono intervenuti, dall'ascoltatrice che ha posto la domanda sulla lettura contemplativa del testo, ad Alessandro da Roma, a Cesira e al nostro Antonio dal Piemonte. Ecco, ne approfitto per dire che la congregazione mia, io sono un paolino, la mia congregazione è nata proprio in Piemonte, nella città di Alba. Il mio fondatore, il Beato Giacomo Alberione, pensando alla nostra nascita in questa città ad Alba, collegava le lettere della città ai quattro Vangeli, ai simboli dei quattro Vangeli, quindi l'aquila, il leone, il bue e l'angelo, che rappresenta l'angelo rappresentante di Matteo, no? Ogni simbolo, ecco, compone il nome della città di Alba, per dire noi siamo nati ad Alba perché il Signore ci ha affidato il Vangelo e come Paolo lo dobbiamo portare in tutto il mondo. Quindi grazie a tutti voi che siete intervenuti, auguro a voi e a tutti gli ascoltatori un fecondo tempo di Quaresima. illuminato dal mistero dell'amore di Dio. Ci risentiamo tra un mese, Dio ci benedica e la sua madre, la Vergine Maria, protegga tutti noi. Buona serata a tutti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.